Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come sempre il venerdì abbiamo anche l'appuntamento con la nostra poco invidiabile classifica, la top 5 degli sprechi, ahimè, però che cade, visto che alcuni di voi immagino e spero abbiano ascoltato anche Oscar Giannino prima del GR24, cade proprio nel pieno delle polemiche, devo dire imbarazzanti, sui vitalizi. Allora, al di là di chi contesta la norma perché è troppo morbida, obiettivamente in un paese normale non si sarebbe neanche arrivati alla dialettica, si faceva subito e basta. Tra l'altro questo riguarda per i condannati a più di 2 anni, a nostro avviso il tema dei vitalizi, lo sapete, è un tema che va tutto rivisto. So già l'obiezione, si tratta di diritti acquisiti, c'è Mario Capanna che è sulle barricate, come cambia la vita per i vitalizi. Mario Capanna era il leader del movimento, uno dei leader del movimento studentesco negli anni 70 soprattutto, Democrazia Proletaria se non ricordo male, era il partito di cui era segretario quando io insomma, avevo appena iniziato ad avere il diritto di voto. Vederlo combattere strenuamente anche alla zanzara sul vitalizio fa un po' ridere, anche perché questa cosa dei diritti acquisiti, mi dovete spiegare perché valgono i diritti acquisiti solo in questo caso per i vitalizi e non per i pensionati, gli esodati e quant'altro. I diritti acquisiti insomma si possono anche rimodulare, fine. Poi nessuno sta parlando nel caso di Capanna di un vitalizio da eliminare, come invece chiederemmo noi. Si dice la riduzione del 10% decisa dalla regione Lombardia, questo è il grande motivo per cui salire sulle barricate, modello maggio francese o comune di Parigi, insomma si muovevano su altri diritti, ci sembra di poter dire. Comunque abbiamo la nostra classifica, abbiamo anche un premio ex aequo che spero vi sorprenderà, perché c'è anche qualcosa di positivo, e poi come sempre l'imprenditore che usiamo come esempio, che si rimbocca le maniche, che rischia e che nel pieno della crisi, quindi tra il 2009 e il 2014, ha aperto un'attività. Li abbiamo ogni settimana, sono i casi più svariati, non ci interessa il fatturato, ma ci interessa il coraggio, la determinazione, la voglia di non sedersi, di non piangersi addosso e soprattutto farsi sconfortare dalle notizie che diamo. Dopodiché la giornata di borsa, oggi più che positiva, qualche schiarita sulla Grecia, ma vi prego, in questo periodo i mercati sono molto ipocriti, prendono qualunque cosa, il maltempo fra un po' diventerà la scusa per vendere o comprare, le mezze stagioni che non ci sono più, qualunque scusa è buona. In realtà oggi c'è un rimbalzo classico su tutti i settori, quindi non motivato, generalizzato, più 2% Milano, più 2,5% Parigi, più 2,60% Francoforte, più 2% Londra, più 1,50% gli Stati Uniti. Sì, anche gli operatori dei mercati sono dei paraguru, nel senso che quando non sanno che cosa dire dicono che comprano per vari motivi. In realtà ci si muove anche lì in molti casi come un gregge. UX più 5%, Mediobanca in un senso o nell'altro, sia quando vendi sia quando compri. Mediobanca più 4,5%, Moncler più 4,30%, Enel pure, Fiat più 3,60%, Snam più 3,5% come Unipol sai, il 3,30% lo guadagna Luxottica, il 3% Mediolanum, il 2,70% Ferragamo e Campari, il 2,40% Eni Eterna, il 2,20% è il rialzo di Intesa San Paolo, Mediaset e Prismian, il 2% lo guadagna Telecom Italia, ma anche Autogrill e Tods e infine Finmeccanica. Chi perde? Solo il Monte dei Paschi, che era l'unica banca che cresceva quando 2 giorni fa c'è stato un calo significativo anche sui bancari. Monte dei Paschi meno 1,33, Ubibanca meno 0,30, Pop Emilia Romagna meno 0,32, euro sempre a quota 1,12, però più vicino a 1,11 oggi che a 1,13, 1,12,15. Il numero per i vostri sms è come sempre 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Mi chiede un ascoltatore subito, per favore, oggi niente brutte notizie. Cercheranno di fare il possibile, diciamo così, tra le notizie brutte accompagneremo le notizie brutte anche notizie positive e propositive, di più non possiamo fare, altrimenti andremo a distorcere la realtà. Le notizie in breve intanto. Chiaramente parleremo anche di Gran Bretagna, perché se ieri raccontavamo l'incertezza che accompagnava questo voto, oggi lo scenario che si è palesato è diverso. Il partito di David Cameron, quindi i conservatori, ha la maggioranza assoluta in Parlamento, 331 seggi, una buona maggioranza rispetto alle attese, che addirittura parlavano di un Parlamento hanging, cioè appeso, 28 seggi di scarto. Tra l'altro, da questo punto di vista sono 28 seggi in più rispetto alle elezioni precedenti, e i laburisti hanno ottenuto 232 seggi, meno 25 rispetto alle elezioni precedenti. Lo scarto, dicevo, sono 28 seggi in più, quindi permette ai conservatori di avere la maggioranza, che di 326 è poca, chiaramente sono 5 seggi in più, ma non ce l'aveva la maggioranza numerica nel Parlamento precedente. Ed Miliband ha annunciato le dimissioni. Io faccio notare una cosa, che in Gran Bretagna, quando un partito, anche se insomma è un partito importante come i laburisti, perde le elezioni, il segretario si dimette. Lo dico al PD, a Forza Italia, o al PDL come si chiamava una volta, si dimette il segretario quando perdi, non è che poi parte la minoranza interna a chiedere dimissioni, si dimette e basta. Beh, il PD pensi a cosa è successo negli ultimi 20 anni, ci pensi anche il PDL o Forza Italia, il problema è che lì magari non c'era il segretario, ma insomma si dimette il segretario, anche se Miliband era giovane, più giovane di Cameron, aveva dietro di sé un nuovo modello di Labour, tutto quello che volete, ha perso le elezioni, va a casa. E anche Clegg, ossia il vice premier del governo Cameron, che era il numero uno dei Lib Dem, del Partito Liberale, ha beccato appena 8 seggi, ne ha persi 48, è il tracollo della del terzo partito, che invece anni fa fu determinante quando cedevano sia i conservatori che i laburisti. Beh, dico, anche Clegg ha annunciato le dimissioni, ma è normale, no? Il botto l'hanno fatto i nazionalisti scozzesi, che hanno ottenuto 50 seggi in più. Nigel Farage, anche lui, anche il leader, diciamo, degli ultranazionalisti inglesi, si dimette, ha ottenuto solo un seggio, praticamente li ha dimezzati, ne aveva due se non ricordo male, e quindi ha annunciato le sue dimissioni. Insomma, tre segretari che hanno perso, tutti e tre di quelli che hanno perso si dimettono, pensa un po' come funziona la più antica, diciamo, democrazia del mondo moderno. Ora, la sterlina, che in mattinata era salita del 2,2%, il maggior balzo dal 2009, è tornata a crescere, è arrivata fino, diciamo, al dollaro, cresce quasi del 2%. Perché? Perché si ritiene a questo punto che il governo, ed è vero, sia un governo più che stabile. In questo momento la sterlina sull'euro è a 0,72, pence 0,72,7, e sul dollaro è a adesso ve la darò se mi arriva anche la sterlina sul dollaro, comunque era 1,55 nei confronti del dollaro, cioè una sterlina vale 1,55 dollari. Allora, sì, alcuni già criticano quello che è stato approvato ieri sui vitalizi, è farlocco, è morbido. Vabbè, adesso vi arriveremo. Dico solo che in un paese normale in un paese normale non si arrivava neanche a discutere per tutto questo tempo se dare i vitalizi a chi è condannato per più di 2 anni. Ripeto, io sarei perfino contro i vitalizi, non si capisce perché. Non è un lavoro, cioè il lavoro è un'altra cosa. Quella è una scelta di candidarsi in politica regionale, comunale. Allora va benissimo avere diciamo il rimborso spese, la diaria, i soldi per il portaborse, nessuno contesta, non facciamo del facile populismo. La politica ha un costo e va gestito. Non si capisce perché, se tu hai fatto un mandato o 2 mandati o 3 mandati, devi avere il vitalizio arrivato a una società che non esiste più per nessun italiano. Ma perché la pensione? La pensione, come ha spiegato la Corte Costituzionale, è uno stipendio differito nel tempo, c'è una trattenuta da parte del datore di lavoro che te la ridà più avanti. Che i famosi contributi all'INPS, all'INPCI, all'EMPA, chi cavolo volete voi. E infatti mica la chiamano pensione, la chiamano vitalizio, che è già proprio brutto come nome, perché vitalizio dà l'idea di una renta, di un rentier, di una cosa pre-rivoluzione francese, no? Però, andiamo avanti con l'economia internazionale. Il gruppo svizzero dell'agrochimica Syngenta ha respinto l'offerta di acquisizione da 45 miliardi di dollari avanzata dal colosso USA Monsanto. Avrebbe dato via al leader mondiale nel settore dell'agrochimica, giudicata al di sotto del valore, oltre che non negli interessi degli azionisti. Invece, per quello che riguarda gli Stati Uniti, il dato è particolarmente buono oggi: 223.000 posti di lavoro, la disoccupazione scende al 5,4%, è ai minimi dal 2008, ma dal maggio del 2008. Sulla Gran Bretagna giustamente chiedete che allora qualcuno mi scrive: bravo, così facciamo fare politica soltanto a chi ha i soldi e faranno politica. Sa che non capisco quello che lei sta dicendo, cioè un conto è dire che il politico, guarda, io sono anche per arrivo a capire molto di più il finanziamento pubblico ai partiti, perché lì c'è il tema che non può far politica solo il ricco o l'amico dei ricchi. E non capisco invece il tema dei vitalizi, si figuri un po'. Per cui è verissimo che io penso che ci sia stata molta demagogia nella legge sul finanziamento pubblico ai partiti, che sia trasparente, che sia tutto in regola, ma non, la politica ha un costo, è inutile girarci attorno. Non capisco cosa c'entra il fatto che possono fare politica solo i ricchi con i vitalizi, perché quando tu fai politica hai, come racconteremo fra un po', hai chiaramente i permessi, non è che vieni licenziato, vieni messo in aspettativa, ok? Allora torni a fare un lavoro, se avevi un lavoro o avevi un lavoro serio e sapevi stare sul mercato. Se no, intanto abbiamo scelto la persona sbagliata, e poi non è che io ti posso garantire un lavoro o uno stipendio o una pensioncina perché hai fatto il politico regionale, nazionale per 5 anni. Ma che stiamo dicendo? Allora andiamo avanti, dai, che sennò arriviamo molto lunghi sulle notizie della classifica. Oggi Mario Draghi è tornato sugli acquisti di titoli di Stato che possono essere adattati alle circostanze, lo strumento è flessibile. In Germania si è verificato un calo a sorpresa della produzione industriale, meno 0,5% contro un più 0,4% atteso. L'export comunque ha segnato un più 1,2%. In Italia la produzione industriale sale a marzo, più 0,4%. E più 1,5, una buona notizia rispetto all'anno precedente. Tra l'altro, nei primi 3 mesi a questo punto la produzione industriale ha già acquisito una crescita dello 0,3%, e su questo recupero si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. La domanda che ci facciamo è sempre la stessa: l'economia si sta lasciando alle spalle questa recessione che dura da 3 anni? La notizia di oggi è che la produzione industriale italiana, vale a dire uno degli indicatori più attendibili sull'andamento delle imprese, un indicatore che misura la variazione del volume fisico dei beni prodotti da parte delle industrie, è cresciuto a marzo dell'1,5% rispetto al all'anno precedente. Si tratta di un dato positivo che rappresenta l'aumento più elevato della produzione industriale dall'agosto del 2011 a oggi, vale a dire proprio il momento in cui la crisi del nostro paese ha dovuto affrontare la fase più difficile e più dura. Nei primi tre mesi dell'anno, del 2015, la crescita della produzione industriale è stata però più bassa, solo lo 0,1% rispetto al 2014, a riprova del fatto che i dati economici in questa fase devono essere valutati con molta cautela. Resta da capire se il dato di oggi rappresenti la svolta che può far ben sperare sull'andamento dell'economia nei prossimi mesi. Bene, proprio ieri l'Istat ha corretto al rialzo le previsioni economiche, confermando che quest'anno per l'Italia ci sarà una crescita del PIL dello 0,7%. Previsione positiva, quindi, che però conferma anche la debolezza della nostra crescita rispetto agli altri paesi. Si pensi che in Europa quest'anno la crescita viaggerà a un ritmo più che doppio rispetto a noi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. No need to love and cry. It's a wonderful, wonderful life. Allora, mentre continuano a scrivermi alcuni ascoltatori, glielo spiego io perché i vitalizi, senza i vitalizi fare politica è roba da ricchi, io continuo a non capire. E un altro mi scrive: lei fa finta di non capire che il vitalizio fa in modo che anche i poveri possano fare politica. A parte che il vitalizio viene dato a tutti al di là del reddito, per cui già il vostro ragionamento traballa. Poi io accetterò queste critiche se mi spiegate che cosa fate nella vita. Se avete mai avuto un vitalizio, se avete mai fatto il consigliere regionale, il deputato, questo, perché sennò è troppo facile trincerarsi dietro i poveri, che ripeto, un conto è pagare la campagna elettorale e i finanziamenti ai partiti, un conto è, però abbiamo visto come venivano utilizzati i soldi nelle regioni quasi tutte italiane, che quelli sì dovrebbero consentire anche a chi ha un basso reddito di avere dei finanziamenti per fare attività politica sul territorio, non andare a mangiarsi le ostriche, comprarsi i Tampax ed essere in tre posti in contemporanea, ok? Quello ha un senso, come il finanziamento alla politica, che va finanziata, è inutile girarci attorno, non è che si faccia gratis, se no la fanno solo i miliardari. Ma il vitalizio che cavolo c'entra, anche perché viene dato a tutti al di là del reddito. Comunque, siamo arrivati in questo paese poco normale almeno a sancire un principio di normalità, e cioè i parlamentari condannati a più di 2 anni per reati gravi, mafia, terrorismo e reati contro la pubblica amministrazione non riceveranno più vitalizio. Segnale di forte moralizzazione, dicono sia presidente della Camera Boldrini che del Senato Grasso, anche se Grasso poi ammette: volevo di più. Anche noi, Grasso, avremmo voluto un po' di più, perché va bene tutto, ma se il reato c'è stato, io non capisco perché il mitico Cirino Pomicino, uno di quelli che ancora parla in giro, ma faccio notare cosa capitò al debito pubblico italiano quando Cirino Pomicino, medico, laureato in medicina, se non ricordo male, vado a memoria, era la Prima Repubblica, era forse dermatologo, ma la memoria mi può ingannare, era ministro delle finanze. Pomicino parla al di là di tutte le inchieste, parla ancora, però beccherà ancora il vitalizio, perché lui è stato condannato a 1 anno e 8 mesi per finanziamento illecito ai partiti. Una robetta, giusto? Una robetta, visto che poi nel finanziamento illecito ai partiti partono le bustarelle, la corruzione. Però lui lo beccherà perché è sotto i 2 anni. Invece non lo prenderanno Silvio Berlusconi, a proposito del fatto che il vitalizio viene dato ai poveri, Cesare Previti, Toni Negri e Marcello Dell'Utri. Poi cosa succede? Se viene riabilitato il condannato, l'erogazione riprende dalla data di accoglimento dell'istanza da parte del tribunale. Ok, un principio, qualcuno scrive: beh, almeno è un principio, sì. In un paese normale non ci sarebbe neanche dovuto essere vitalizio per i condannati. Però va bene. Come dicono a Milano, piuttosto che niente, meglio piuttosto. E allora la classifica della settimana, la top 5, 349-238-6666 per i vostri sms, la posta di Focus Economia sul sito di Radio 24, classifica. classifica della settimana. Una classifica un po' diversa perché abbiamo due premi ex aequo al primo posto, uno vero e l'altro invece provocatorio. Allora andiamo al quinto posto. Ora, la eurodeputata Lara Comi ha voluto dimostrare in maniera molto plateale come le classifiche del lavoro degli onorevoli che stanno a Bruxelles, molto pagati, che tornano giovedì, sappiamo tutto, siano falsate. Cosa ha fatto lei? Ha fatto 82 interrogazioni scritte alla Commissione Europea, il 15% di quelle catalogate in un giorno solo, di quelle catalogate a Strasburgo in 24 ore, spaziano dalla garanzia giovani alle imprese cipriote, dalla lotta alla disoccupazione spagnola alla crisi olandese. L'ho fatto apposta, ha detto Lara Comi, perché voglio dimostrare come le classifiche sul lavoro degli onorevoli europei siano falsate, si beccano punti sul lavoro in base a qualunque domanda. In effetti è strana sta cosa, perché le interrogazioni parlamentari possono essere orali, e fin qui va bene, o scritte. Le prime sono le classiche interrogazioni che conosciamo anche noi e si fanno nel Parlamento europeo. Le seconde tornano sul PC dopo un paio di mesi. Costano. Ogni testo va registrato, tradotto e studiato dall'esecutivo dell'Unione Europea, spedito al Parlamento e ritradotto. Sapete quanto sono costate le 82 domande di Lara Comi ai contribuenti europei? 120.000 euro per 82 domande. Roba che... siamo a 1.500 euro a domanda, c'è gente che con una domanda ci campa un mese. Allora, l'ho fatta apposta, è una guerra per la meritocrazia, dice Lara Comi, però i numeri sono alti e i testi vani. Allora, dal luglio del reinsediamento in Europa, la leghista Mara Bizzotto ha fermato 228 testi, cioè interrogazioni scritte, che sono costati 340.000 euro, quasi uno al giorno. Ne fece 1.344 nella passata legislatura, il che non vuol dire non fate le interrogazioni scritte, ma visto che costano 1.500 euro una, fatele su cose importanti, per favore, non per salire nella classifica di chi più è impegnato nell'Europarlamento, perché è troppo comodo, no? È come la muina delle navi della Regia Marina Borbonica, chi stava a poppa andava a prora, chi stava a prora andava a poppa, non cambiava una mazza. Allora, perché lo dico? Perché ci sono alcune domande assolutamente legittime, ma la Bizzotto ha chiesto anche notizie su 1.500 euro per questa domanda, risposta, traduzione, ha chiesto notizie sugli animali dello zoo di Kharkiv in pericolo. Ora, Kharkiv, lo zoo di Kharkiv è in Ucraina. La Commissione Europea le ha risposto: scusate, ci chiamiamo Commissione Europea e non abbiamo competenze in Ucraina. La Bizzotto, e l'Ucraina non è ancora in Unione Europea, anche perché forse ce ne saremmo accorti, se ne sarebbe accorta anche Mosca. Ma che cosa chiede lo zoo di Kharkiv? Non è in Europa? Vabbè. Poi c'è Michela Giuffrida. Ripeto, molte di queste domande sono legittime. L'importante, sapendo quanto costano le domande scritte, è farne in maniera parsimoniosa. Che cavolo di senso ha che Michela Giuffrida del PD faccia un'interrogazione al Parlamento europeo per il cedimento del pilone della A19 Palermo-Catania? Ma quello è un problema nostro, dell'ANAS, dell'ex Ciucci, della Sicilia. Ma che cosa c'entra Bruxelles sul pilone della Palermo-Catania? Il leghista Buonanno, quello che ogni tanto parla così in maniera anche su questa radio, ha denunciato in un'interrogazione scritta costata 1.500 euro. Buonanno, ma lei che pusher usa? Ha denunciato gli auricolari sporchi del Parlamento. Pusher è una battuta, la capisce benissimo. Gli auricolari sporchi, e ha paventato il rischio Ebola. A parte il fatto che allora qua in radio, insomma, per carità, sono abbastanza puliti, ma se lì avete il rischio Ebola, qua siamo a rischio tifo. Voglio dire, per non parlare del resto, ma che 1.500 euro? Raffaele Fitto ha fatto un'interrogazione sulle migrazioni, definendole un deliberato tentativo islamista di destabilizzare l'Italia. Ha parlato delle migrazioni, tentativo di destabilizzare l'Italia. C'è chi in Forza Italia ritiene che Fitto sia un deliberato tentativo di destabilizzare Forza Italia, ma questo è un altro discorso. La stessa Lara Comi ha domandato a Bruxelles se, sempre interrogazione scritta, 1.500 euro, se non abbia piani per l'ippoterapia, che è una cosa molto seria, è la terapia che serve ai bambini con problemi gravi e viene fatta con i cavalli. Il problema è che non so se sia un tema europeo, infatti l'Europa le ha risposto con questa definizione: i programmi non prevedono azioni in materia. 1.500. Quarto posto, dov'è che me lo son perso? Quarto posto, arriviamo subito anche al quarto posto, eccolo qua, il mitico CNEL. Da tempo chiediamo che venga chiuso assieme a altri enti inutili. Tra l'altro dovrebbe essere abolito dalla riforma costituzionale che è ancora all'esame del Parlamento, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Allora, la Corte dei Conti del Lazio ha chiuso l'inchiesta e sostanzialmente ha mandato l'avviso di garanzia, si chiama invito a fornire deduzioni, a 21 componenti del CNEL accusati di danno erariale. Hanno 2 mesi di tempo per presentare la difesa, poi la procura deciderà se andare avanti o no con il cosiddetto atto di citazione, cioè il rinvio a giudizio vero e proprio. Cosa contesta la procura della Corte dei Conti del Lazio al CNEL? Noi contestiamo che non serve a nulla, però calcola un danno alle casse pubbliche pari a 1.200.000 euro più gli interessi per gli incarichi affidati a persone o società esterne tra il 2008 e i primi mesi del 2012. La cifra va divisa tra i 21 componenti del CNEL. La somma più alta riguarda il presidente Antonio Marzano, per il quale viene calcolata una quota di danno pari a 244.000 euro, ex ministro delle attività produttive del primo governo Berlusconi, se non ricordo male. Cioè, la Corte dei Conti contesta che queste consulenze vengono assegnate con procedure illegittime, 39, e 10 tipi di irregolarità contestate, e poi il CNEL non ha mai verificato in questi casi se i lavori affidati all'esterno potevano essere svolti dal personale interno. Poi non c'erano criteri per una valutazione comparativa, c'è una gara in cui scegliere il migliore, e in molti casi ci sono dubbi sulla proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita l'amministrazione. Infine viene contestata l'omessa verifica che l'incarico sia stato effettivamente concretamente svolto secondo le modalità e i criteri fissati. Manca solo che gli dicano: erano amici loro e l'hanno fatto per tenersi buoni degli amici. Ma ragazzi, cioè, a Marzano vengono contestati 244.000 euro di consulenze affidate all'esterno, al direttore generale Michele Dau 238.000, e si arriva giù fino ai miseri 1.250 euro a carico del consigliere Stefano Sepe. Nel frattempo il CNEL è senza fondi, le attività di ricerca sono ferme da 2 anni e gli 80 dipendenti non hanno nulla da fare, nulla. Tra l'altro la riforma li trasferisce proprio alla Corte dei Conti. La sede, che è una bellissima sede, l'abbiamo anche visitata, Villa Lubin, sotto i piedi di Villa Borghese, doveva essere venduta e fare un hotel a 5 stelle. Almeno lo Stato, noi cittadini, ci ricavavamo qualcosa. No, bloccato tutto, possibile che venga girata al CSM, che evidentemente ne ha bisogno. Vado rapido perché poi devo lasciare l'ex equo dopo il metro e la pubblicità. La Sicilia, ma perché mi dite sempre la Sicilia? Perché la Sicilia è una regione tutto autonomo che si date i suoi regolamenti. Allora, praticamente in tutta Italia i permessi retribuiti per i consiglieri comunali quando vanno a esercitare il loro mandato, permessi aziendali, devi andare a votare, c'è una riunione del consiglio, c'è una commissione, sono concessi in tutta Italia, giustamente, per il tempo strettamente necessario per partecipare a ciascuna seduta dei rispettivi consigli. Scusami, datore di lavoro, ho la seduta alle 10, devo assentarmi 2 ore, un po' come i permessi sindacali, grazie alle 10. No, in Sicilia una legge regionale refrattaria a quella nazionale prevede che i consiglieri hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata, anche se devi starci 10 minuti o un'ora, guardate che roba da pazzi, in cui sono convocati i rispettivi consigli. Per legge è essenziale bisogna partecipare, in Sicilia basta essere convocati, quindi uno basta che arrivi, firmi la convocazione e già ha il permesso per un giorno. Voi direte: che danno per i datori di lavoro? No, che danno per noi cittadini, per i siciliani, perché giustamente il datore di lavoro si fa pagare dal comune, nel senso che si chiamano oneri riflessi. Il consigliere non lavora, il datore di lavoro gli anticipa gli emolumenti, cioè anche se non lavora gli dà in busta paga la giornata lavorata, e poi la ricarica o la carica al comune che deve rimborsare. Se tutto questo vi sembra normale... Allora, io non voglio raccontarvi con questo modo quanti consigli quante sedute di commissioni e di consiglio vengono indette. A Gela nel 2014 1274, 3 al giorno. Staccano fin confronto, erano scioperato, 76 di consiglio. A Siracusa 1257 sedute, e via così. Vi dico solo un dato e poi andiamo col metro e la pubblicità, che siamo in straritardo. il confronto fra quanto si spende in Sicilia rispetto al resto d'Italia per le indennità e i rimborsi dei consiglieri comunali. La città di Messina nel 2014, che ha più o meno gli stessi abitanti di Verona, non dico come è gestita rispetto a Verona, ma ha gli stessi abitanti, ha speso 3, perché poi anche questo conta, tutte queste commissioni per fare che cosa? Per gestire le città. Sto zitto, se andiamo sulla querela anche oggi. Allora, la città di Messina ha speso 3 milioni e 700 mila euro per indennità e rimborsi. Verona nemmeno la metà, 1 milione e 450 mila. Bologna, che ha due volte il numero degli abitanti di Messina ed è gestita abbastanza bene, rispetto a Messina si può dire senza che si offendano i messinesi, ha speso 2 milioni e 450 mila euro, cioè ha due volte e mezzo gli abitanti e è riuscito a spendere un terzo in meno. A Catania, nota la gestione di Catania, anche finanziaria, 3 milioni e 300 mila euro sborsati, 1 milione in più rispetto a Bologna, che ha 60 mila abitanti in più. Palermo ha speso 5 milioni e mezzo di euro per i consiglieri comunali per le sedute, contro i 4 milioni di Torino, che ha 250 mila abitanti in più, ma ha speso 1 milione e 200 mila euro in meno. Quando leverete l'autonomia alla Sicilia assieme alle altre autonomie, non potremmo che ringraziarvi. Meteo, pubblicità e poi i due primi posti, l'ex equo e l'imprenditore nostro modello che mettiamo apposta in questo spazio, che accetta la sfida, si è rimboccato le maniche e ha lanciato una nuova impresa. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Focus Economia. Allora, stiamo sballando tutti i blocchi del programma. Va bene, andiamo rapidi. Al primo posto, in realtà, ripeto, classifica ex aequo oggi, perché teoricamente al primo posto avremmo voluto mettere la regione Lazio, che ne ha fatta una che adesso vi racconto, però poi abbiamo dovuto schiaffeggiare tutta la classifica con un'altra cosa. Allora, regione Lazio, che ex aequo vince al primo posto. La sconcertante iniziativa risale al 2002, quando c'era il presidente del Consiglio regionale Claudio Fazzone, oggi senatore e esponente di spicco di Forza Italia. Quindi diamo nomi e cognomi, poi ci scriveranno. È membro anche del comitato di presidenza. Allora, Fazzone, nel 2002, quando era presidente del Consiglio regionale, si decide che gli uffici del Consiglio regionale della Regione Lazio sono troppo piccoli, troppo decentrati, scusatemi, e bisogna affittare un immobile nel centro di Roma come immobile di rappresentanza. No, ma scusatemi, sei la Regione Lazio, che cavolo di senso ha l'immobile di rappresentanza nella città in cui sei già? Cioè, voglio dire, è come se uno aprisse l'ambasciata d'Italia a Roma, ma che cavolo di senso ha? Esiste quella del Vaticano o la Gran Bretagna aprisse l'ufficio di rappresentanza del comune di Londra a Londra, ma la rappresentanza si fa per definizione in un altro posto, no? Che cavolo rappresenti? È uno specchio, te stesso, non c'entra. Immobile da affittare nel centro di Roma, via Poli, la sede di rappresentanza della presidenza che sta, la sede di rappresentanza a Roma della presidenza che sta a Roma, ma è il massimo. Qui siamo allo sdoppiamento di personalità, a Freud, Jung. Allora, chi è il proprietario a cui viene affittata? Il mitico Scarpellini, quello che affitta locali pagati dalla Camera, i Palazzi Marini che ospitano l'ufficio dei deputati, al Senato, l'ex Hotel Bologna, al Comune di Roma. No, vi ricordate lo scandalo di Scarpellini? Costo dell'affitto, che pagano i contribuenti del Lazio e non solo, 430 mila euro più IVA. 3 anni dopo altri 250 mila euro di ristrutturazione, con la pigione che scende a 300.000. Così in 9 anni è costata ai contribuenti del Lazio 3 milioni di euro. Ma la cosa che mi fa più girare le scatole sono le spese di mobili su pellettili, perché già fai una sede di rappresentanza nel posto in cui hai sede. Ma nel 2002 il Consiglio regionale, sempre presieduto da Claudio Fazzone, decide di acquistare gli arredi per i locali di rappresentanza della presidenza, precisando che si deve trattare testuale di beni pregiati, non si capisce perché. L'IKEA fa schifo? Allora, 4 giorni dopo, il 13 maggio, viene firmata un'ordinanza di pagamento alla ditta Antichità Sturni, solo lei vince la gara, che su indicazione del presidente, quindi la responsabilità è tutta sua, caro Fazzone, decide di acquistare mobili e quadri pregiati per arredare i locali della sede di rappresentanza del posto dove tu hai già sede per un totale di 84.000 euro. Un mobile a due corpi, ma che sono animati, sono vivi questi due corpi, costa 35.000 euro, come tutti noi, no? Un mobile quanto ti costa? 35.000 euro. Un tavolo, cosa ti può costare un tavolo? 12.400 euro, è normale. 8 sedie, quanto possono costare? 7.000 euro, giustamente. La tappezzeria, 2007, gliela faremo noi la tappezzeria, ma è un altro discorso. Due quadri, mica pigli due quadri così, no, due quadri, 27.000 euro. E tutto viene pagato addirittura prima della stipula del contratto, di 22 giorni prima, non si è mai vista la pubblica amministrazione pagare così in fretta, con miliardi che aspettano ancora gli imprenditori dalla pubblica amministrazione per servizi e beni già erogati. Qui si paga 22 giorni prima. Due anni dopo vengono fornite, sempre dall'Antichità Sturni, 80 stampe raffiguranti i paesaggi della campagna romana, immancabili, no? 100.000 euro, giustamente. Quindi, tutti gli arredi della sede di rappresentanza dal 2002 al 2004 costano 440.000 euro, più le pigioni e senza il telefono alla luce, totale 3 milioni e mezzo, e questo è il premio al mitico consiglio regionale del 2002, presidente del consiglio Claudio Fazzone. Mo c'ho il traffico e poi vedo l'ex equo. Focus Economia. No need to love and cry. It's a wonderful, wonderful life. Oh, allora, oggi è stata dura, perché ce n'erano anche di poche ironiche, purtroppo sono tutte cose molto serie, però io... Abbiamo deciso di dare il premio ex aequo, in realtà non al consiglieri della regione, al consiglio della regione Lazio e quanto ha speso per l'arredo con un paese, vabbè, ma alla classe, lo dico a chi hanno veramente, li abbracciamo tutti forti, perché sono gli studenti dell'Istituto Campano ITIS di Fratta Maggiore. Che cosa è successo? Sono andati lo scorso gennaio a Montecitorio con l'insegnante a vedere come pubblico come funzionavano i lavori. Sono tornati a casa e hanno scritto una lettera che vi voglio leggere nei passaggi principali. E tra l'altro nessuno ha chiesto scusa a nome dei deputati per questo comportamento. Presidente Boldrini, magari una riga su questo la si può fare. Allora, nella lettera i ragazzi parlano del caos inimmaginabile che hanno trovato in una giornata di dibattito sulle riforme costituzionali, e scrivono i ragazzi ai deputati: tutto si faceva tranne che discutere su come cambiare questo paese, che a noi, nuove generazioni, non piace affatto. Abbiamo osservato basiti dalla platea deputati che giocavano a Tetris, Candy Crush, Fruit Ninja, invece di partecipare ai lavori parlamentari. C'era poi chi messaggiava su WhatsApp, chi navigava sul web, chi leggeva la Gazzetta dello Sport o conversava al cellulare. Concludono i ragazzi di Fratta Maggiore dell'ITIS. Tutto questo tra la piena indifferenza collettiva. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo chiesti: a cosa serve insegnarci ad essere persone educate e rispettose del lavoro se poi sono in primis le istituzioni a non rispettare queste regole basilari per qualsivoglia società civile? Boldrini, risponda, almeno lei. Non ho altro da aggiungere. Ragazzi, non è tutta così l'Italia. Aspettate il GR24, che poi vi raccontiamo invece dei casi così emblematici di imprenditori che non si comportano in modi che abbiamo appena raccontato e capiscono che la vita te la devi costruire da solo. Il nostro applauso comunque va a tutti i ragazzi dell'ITIS di Fratta Maggiore, che hanno avuto il coraggio di dire che il re è nudo e non se ne può più di discutere per giorni di un vitalizio per i condannati che non doveva neanche esserci. GR24 Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Focus Economia. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Nel frattempo, mentre c'era il GR24, la pubblicità, ci ha contattato l'eurodeputata Lara Comi. Abbiamo chiarito che la sua era una provocazione per mostrare quanto falsate siano le classifiche sul lavoro degli onorevoli, che basta che mandino eurodeputati, che mandino una cosa scritta per aumentare il loro punteggio sul lavoro e sulle presenze. Lunedì sarà il nostro ospite, così ci racconterà per bene qual è la sua battaglia, così come ci ha scritto un deputato che ci vuole spiegare il meccanismo del Tetris e dei giochini che gli studenti di Fratta Maggiore, guardate, la cosa migliore l'ha scritto un ascoltatore al 349-238-6666, ha detto: diamogli il vitalizio agli studenti dell'ITIS di Fratta Maggiore. Ecco, quella potrebbe essere una buona idea. Capanna, glielo diamo il vitalizio agli studenti che hanno scritto una lettera bellissima per dire: ma noi che cosa dobbiamo pensare del futuro se scopriamo i deputati che giocano a Tetris, Candy Crush, Fruit Ninja, si messaggiano su WhatsApp, navigano su web, leggono la Gazzetta dello Sport o conversano nel cellulare? A cosa serve insegnarci ad essere persone educate e rispettose del lavoro se poi sono in primis le istituzioni a non rispettare queste regole basilari per qualsivoglia società civile? Bravi ragazzi, io lo rifaccio, bravo. Bravi ragazzi dell'ITIS di Fratta Maggiore, ITIS Campano, bravi ragazzi, e vergogna per tutti gli altri, vai. Oggi non parlo più. Vitalizio ai ragazzi dell'ITIS, vediamo se passa la proposta, figurati se passa. Diritti acquisiti, a fare che cavolo vuoi. Allora, Davide Lolli, titolare e fondatore Sumus Italia, buonasera. Buonasera. Allora, lei è il nostro esempio virtuoso, ne abbiamo una settimana che contrapponiamo apposta, così si mettono il cuore in pace gli ascoltatori. Allora, alcuni ascoltatori. Dunque, lei quando ha creato la Sumus Italia, che cosa fate e chi vi ha aiutato? Allora, Sumus Italia nasce a metà 2013, diciamo è un'azienda che noi abbiamo rilevato come facente parte di un'altra azienda che è finita in procedura appunto a causa della crisi che ha caratterizzato anche il sistema bancario in questi ultimi anni. L'abbiamo rianimata, l'aiuto ce lo siamo dati da soli grazie ai nostri fornitori che sono anche nostri soci e quindi ci hanno dato un po' il carburante finanziario per riattivare l'attività che, grazie a Dio, a 2 anni di distanza appunto dalla ripartenza ci sta dando buone soddisfazioni. Allora, voi fate praticamente il sacchetto di carta compostabile, quello che viene utilizzato per la raccolta differenziata, ho capito? Sì, diciamo che noi abbiamo... Ma non lo fate col mais, lo fate con che cosa? No, lo facciamo con carta riciclata italiana, okay. Al 100%, carta che sostanzialmente è la fine dei vari cicli di riciclo e quindi è carta esausta. Noi usiamo un rifiuto per raccogliere rifiuti. Allora, siete partiti nel 2013, chi vi ha aiutato come finanziamenti? Beh, come finanziamenti ribadisco, ci siamo aiutati noi da soli con i nostri fornitori che sono anche i nostri soci in buona parte, i due più importanti che sono dato un anno finanziario iniziale. Le banche ci hanno aiutato a fronte di fiduzioni personali dei soci. Vabbè, almeno vi è arrivato un aiuto. Anche perché i soci, essendo diciamo aziende esistenti da diverso tempo, avevano anche il polmone finanziario per poter offrire garanzie spendibili col sistema bancario, ecco. Ok, ecco, da questo punto di vista il fatturato come sta andando? 2014 immagino il primo e 2015 il secondo? No, allora il primo è stato 2013 1 milione, il secondo 2014 2 milioni e 8, sul 2013 abbiamo un budget 2015. Che viaggia intorno ai 3 milioni e 3 milioni e mezzo a seconda di alcune gare con le quali stiamo partecipando. Avete assunto qualcuno? Sì, allora noi siamo partiti appunto, eravamo soci e collaboratori dell'azienda, poi abbiamo assunto tra l'anno scorso e quest'anno 2 risorse e diciamo quello che ho incrementato in modo importante è l'indotto, perché i nostri fornitori da lavorare su un turno solo, adesso lavorano praticamente tutti su 2 turni, tutti i giorni, quindi siamo passati da un indotto di 7 persone a una 15 in totale. Ecco. Avete fatto contratti col Jobs Act, tutte le crescenti? Ne faremo uno adesso a giugno e un altro molto probabilmente a settembre, con appunto per sfruttare anche gli sgravi contributivi che questo Jobs Act, devo dire, sotto alcuni aspetti. Attenzione che Lolli, la riprendo benevolmente, anche lei fa confusione. Gli sgravi contributivi si applicano dal 1 gennaio al 31 dicembre e non c'entrano col Jobs Act. Sì, il Jobs Act parte dal 7 marzo. Dopodiché chi dal 7 marzo in poi ha assunto a tempo indeterminato gode fino al 31 dicembre di quest'anno del decontribuzione. Allora, un contratto nuovo sarà appunto quello che dice lei, quello che parte dal 1 gennaio, che sfrutta gli sgravi contributivi. Un altro contratto invece sarà a tempo indeterminato con tutte le crescenti, come previsto dal Jobs Act, per essere precisi. Ok, e per quello che riguarda la burocrazia, come andate? Perché insomma l'idea è molto bella, bravi, infatti poi dirò anche una cosa sui ragazzi dell'ITIS, così chi mi accusa di essere populista oggi gode. Dico, avete problemi burocratici, più, mi sembra più che di carattere finanziario, di carattere burocratico? Devo ammettere una cosa, a livello di pubblica amministrazione generalmente parlando ci imbattiamo in persone abbastanza competenti, bene, soprattutto bene. Per quanto riguarda gli assessori all'ambiente e tutto, diciamo, i loro collaboratori. Il problema è che anche loro poi si scornano con una burocrazia che è asfittica, che sostanzialmente non ci consente di velocizzare, non dico la crescita, ma anche l'acquisizione delle commesse, perché noi abbiamo stimato che dal primo incontro che facciamo con un assessore all'ambiente al giorno in cui ci arriva l'ordine, perché è passata in giunta la delibera, perché è stato fatto il bando di gara e tutto quanto, passa un anno e mezzo. Beh, invece abbiamo avuto anche dei casi virtuosi, segnalavo infatti il caso del palazzo di rappresentanza della Regione Lazio nel 2002. No, no, è perché lei ha un po' di sfiga, ma in realtà dove cavolo è? Eccolo qua, quando era presieduto Claudio Fazzone, era presidente del Consiglio regionale, hanno pagato 22 giorni in anticipo, cioè prima della stipula del contratto, per pagare appunto 83.000 euro per arredare con antichità Sturni. Perché noi abbiamo sbagliato mestiere, dovremmo fare gli antiquari evidentemente e avere qualche salto in paradiso, penso. Ecco la seconda forse di quella che ha detto, perché l'antiquario è un mestiere nobilissimo, ci mancherebbe. Allora, quindi da 1 milione a 2 milioni e 8 e 3 milioni e mezzo, l'idea l'avete sviluppata a Pavia, appunto producete sacchetti di carta compostabile, quindi non avete impatto ambientale, questo lo dico perché altri sacchetti vanno benissimo col mais, però c'è l'accusa che sfruttino i terreni agricoli, irrigazione, pesticidi e quant'altro. Questo è il messaggio, con un po' di retorica, che voglio lasciare ai ragazzi dell'ITIS di Frattamaggiore e a tutti i ragazzi studenti. Non fatevi cadere le braccia, è vero, ci sono le cose che raccontiamo e noi siamo qua pagati anche per denunciare, se il giornalismo ha un senso in questo paese, non per lisciare il pelo, diciamo, a dove tira il vento, al padrone di turno. Però la vita non è quella che, solo quella che raccontiamo noi, ci sono tantissimi casi come quello di Lolli, di tutti gli imprenditori che abbiamo avuto in questi mesi. Ispiratevi a loro, ispiratevi alla buona politica, ai bravi professionisti, ai bravi imprenditori. Non ce la farà mai qualcuno che si rassegna prima ancora di partire, non demoralizzatevi, il futuro uno se lo costruisce da solo, guardando anche cosa non fare. Avete fatto benissimo a scrivere quella lettera e ve l'abbiamo letta quasi per intero, grazie anche Davide Lolli, in bocca al lupo. Traffico, poi la borsa e poi anche la Gran Bretagna. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, la borsa oggi giornata piena di pretesti, no, sto sorridendo perché mi scrive un'ascoltatrice, dice: Barisoni, sono una moglie virtuosa costretta ad avere un marito che anziché riparare la cucina non fa altro che ascoltare Focus Economia, glielo diamo il vitalizio a questo debosciato così ci possiamo permettere un idraulico. L'appello va al marito, stia attento agli idraulici, bravissime persone, però esistono anche aneddoti e aneddotica su questo. Ripari, ascolti Focus riparando, perché sennò poi i danni possono essere irreparabili, lo dico per il suo rapporto matrimoniale. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dunque, oggi dicevo tanti pretesti, un pseudo schiarimento sulla Grecia, in realtà dopo un po' che si vende si torna a comprare, diciamola tutta, più 2% Milano, più 2,5 Parigi, più 2,60 Francoforte, non è cambiato niente ma la borsa cambia verso, più 2,32% Eni, più 2, scusatemi, UX più 5%, Moncler più 4,5%, Mediobanca più 4,20%, Enel più 4, Unipolsai più 3,80%, Snam più 3,70%, Luxottica più 3,40%, Fiat Chrysler più 3,20%, Mediolanum più 3, Eni più 2,70% come Campari, il 2,5% lo guadagna Ferragamo, il 2,40% Terna e anche Intesa San Paolo, il 2,20 Prismian, Mediaset, Telecom Italia. Perde il Monte dei Paschi l'1,33%, oggi Mediobanca ha diffuso la trimestrale, conti superiori alle attese, l'utile va nei primi 9 mesi a più 18% a 466 milioni, il trimestre è il miglior risultato da 5 anni a questa parte. Anche Enel diffonde i conti, 810 milioni di utile nel trimestre, più 9,8% i ricavi, il fatturato sfiora i 20 miliardi, Unipol Sai, utile del trimestre, più 66% a 310 milioni. Andrea, un commento complessivo. Beh, un po' è quello che tu dicevi, abbiamo vissuto una settimana turbolenta, questa, diciamo, le indicazioni sono arrivate dalla vittoria dei conservatori in Inghilterra, che ha tolto un importante elemento di incertezza, l'indicazione è arrivata dal dato sui nuovi occupati statunitensi e sul calo della disoccupazione, che fornisce una chance maggiore alla Federal Reserve per un rialzo dei tassi in tempi non troppo dilatati, e anche un'attesa diciamo un po' più fiduciosa per le trattative Grecia creditori, che la settimana prossima vivrà un passaggio decisivo, sono stati, diciamo così, i pretesti giusti per recuperare, e questo ha fatto sì che il FTSE MIB chiuda la settimana con più 1,1 come bilancio complessivo, mentre prima era in calo. Ha recuperato il lusso, hanno recuperato i servizi pubblica utilità e nel Snam Terna, bene anche Eni, hanno un po' sofferto oggi le banche, perché invece nelle ultime sedute avevano ben recuperato, per esempio Azimut nel settore risparmio cestito ha vissuto un rally importante sui conti e sulla raccolta di aprile, oggi ha un attimo respirato ed è stata invariata. Allora sì, si dice, insomma, movimenti orizzontali, l'importante è che non riguardino, che orizzontali non siano gli azionisti dei titoli in borsa, l'euro a quota 1,1224, quindi verso quota 1,11, non ho altro da aggiungere oltre alle trimestrali che abbiamo dato, vi do i migliori e peggiori, High Real più 10,80, BS più 9,90, Digital Magics più 6,96, Digital Brothers più 6,26, Media Contact meno 4%, Beyond meno 3,70, Energy Lab meno 3,37, Meridie meno 2,89%. Buon fine settimana, Andrea, a te, i colleghi di Radio Core, Il Sole 24 Ore. E adesso passiamo alla Gran Bretagna e all'esito elettorale, la ricaduta economica della vittoria, devo dire non scontata, anzi per alcuni a sorpresa, dei conservatori in maniera così netta. Mi scrive un ascoltatore, immagino deputato, se l'aula è vuota spesso i parlamentari stanno facendo attività utile al sistema, ma si grida lo scandalo, se devi andare in aula per uno o più voti capita di non avere nulla da fare lì. E questo cosa vuol dire, mi scusi? Che è giusto giocare a Tetris e i giochi che raccontavano gli studenti di Fratta Maggiore? Nel senso che se in un posto di lavoro normale un dipendente è colto a giocare a Tetris, Candy Crush, Fruit Ninja o stare su WhatsApp, navigare sul web, leggere la Gazzetta dello Sport, viene colto in fallo e dice, beh, io non ho niente da fare, un'azienda normale dice, bene, hai ragione, sei un esubero, sei di troppo, allora io devo fare lo stesso ragionamento con voi e dire, è vero, eliminiamo il Senato, 615 più 300, 630 più 315 siete troppi, se non avete niente da fare, o se no trovate qualcosa per cui documentarvi, scommetto che qualcosa da leggere in più nella vita uno ce lo può avere, invece che giocare a Tetris, Candy Crush o Fruit Ninja. Mica hanno scritto i ragazzi che stavate leggendo Nietzsche o Kant, Critica della ragion pura, stavate giocando a Tetris e Candy Crush, ma vergognatevi, dai Gran Bretagna. Visto che ci siamo, la notizia più importante a mio avviso delle elezioni britanniche, scherzo chiaramente, però riguarda il fatto che tutti e tre i leader dei partiti che sono risultati sconfitti, lo dico per la seconda volta, si sono dimessi. Ed Miliband, leader dei laburisti, ha ottenuto 25 seggi in meno, si dimette. E poi Nick Clegg, leader dei liberali, ha ottenuto 8 seggi, ne ha persi 48, si dimette. Nigel Farage, leader dei nazionalisti, ultranazionalisti inglesi, ha ottenuto un seggio, ne ha perso uno, cioè dimezzato, si dimette pure lui. Oh, Così funziona la democrazia britannica, la prima al mondo. Da noi non si dimette mai nessuno, neanche quando perde le elezioni, perché in realtà non le ha perse, ha vinto una parte. Thank you, you're an amazing team. I remember working just as you've been working in 92, and that was an amazing victory. And I remember 2010, achieving that dream of getting Labour out and getting the Tories back in, and that was amazing. But I think this is the sweetest victory of all. Yeah. Celebrate the fact the pundits got it wrong, the pollsters got it wrong, the commentators got it wrong. The real reason to celebrate tonight, the real reason to be proud, is we are going to get the opportunity to serve our country again. Oh, vabbè, festeggiamenti, diceva Cameron, sentivate anche gli exit poll, sono stati sbagliati, abbiamo vinto noi, adesso abbiamo la prospettiva per fare continuare con le nostre riforme. Sergio Nava, inviato da Radio 24 a Londra, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, già ieri abbiamo raccontato a lungo anche la parte programmatica dei conservatori per quello che riguarda il blocco degli aumenti fiscali per i prossimi 5 anni. Io vorrei capire una cosa, intanto appunto se quella sarà la principale linea di carattere economico su cui si muoverà il neo governo Cameron, che è più forte del precedente, perché ha la maggioranza per 5 seggi assoluta, e cosa succederà al referendum europeo. Prego Sergio. Beh, allora, diciamo, partendo dal punto di vista economico, bisogna dire che, come un po' tutti i programmi elettorali, anche quello di Cameron metteva dentro tutto e il contrario di tutto, tanto che poche settimane fa l'Institute for Fiscal Studies aveva bocciato tutti i programmi economici dei maggiori partiti, dicendo che erano dei libri dei sogni irrealizzabili. Questo perché Cameron comunque ha promesso, in linea con la tradizione conservatrice, di abbassare il carico fiscale, però allo stesso tempo ha promesso anche di ridurre poi il deficit fino ad arrivare un surplus, se ricordo bene, entro 3 anni, non dicendo che alla fine questo comporterà inevitabilmente dei forti tagli alla spesa pubblica. L'Institute for Fiscal Studies calcolava addirittura 30 miliardi di sterline all'anno, e quindi bisognerà vedere come conciliare questo alleggerimento fiscale con poi tutto quello che è la spesa pubblica, il welfare, i trasporti, la scuola, la sanità soprattutto. Grosse preoccupazioni ci sono sui tagli che Cameron e i conservatori potrebbero fare alla sanità pubblica inglese, e poi c'era anche la promessa comunque di aiutare le aziende a creare altri 2 milioni di posti di lavoro. Su questo staremo ovviamente a vedere. Poi c'è, come dicevi tu Sebastiano, il capitolo Europa. Allora, su questo Cameron ha ribadito più volte anche oggi che ci sarà il referendum nel 2017 su dentro o fuori dall'Europa. Quello che succede adesso, da giugno formalmente si apre col Consiglio Europeo di giugno la grande negoziazione tra Gran Bretagna e Europa per riformare l'Unione Europea. Gli inglesi sono molto chiari, vogliono cambiare le regole sull'immigrazione, vogliono tagliare i benefit per chi arriva cercando lavoro, non vogliono darli subito, anzi vorrebbero un periodo di congelamento di 4 anni ai sussidi, e vorrebbero anche riscrivere le leggi sull'immigrazione in modo da far arrivare più agevolmente i cittadini delle ex colonie, quindi australiani per esempio, solo per fare un esempio. E dall'altro lato c'è un po' l'allergia inglese a quella che è una maggiore integrazione politica dell'Europa, su cui si sta muovendo la Commissione Juncker. Loro invece vogliono ampliare ciò che è spazio commerciale, spazio di cooperazione economica, non vogliono la politica, insomma. E staremo a vedere, anche perché la City britannica, cioè la principale piazza finanziaria al mondo assieme a Wall Street, è nettamente contraria a questo, e faccio solo notare, come dato di cronaca, che sono anche i finanziatori del Partito Conservatore nella City britannica. E come? Grazie intanto a Sergio Nava, che ritroveremo nei GR 24. Da Sebastiano Barisoni l'augurio a tutti voi di un buon fine settimana, a partire dai ragazzi di Fratta Maggiore, mitici ragazzi di Fratta Maggiore. Avete scritto delle cose bellissime, meglio di qualunque editoriale possibile su cosa fare alla Camera, i nostri deputati. Un ringraziamento come sempre anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi, che permettono anche la nostra poco invidiabile rubrica della Top 5, visto che me lo chiedete spesso, e grazie a loro. E all'assistenza come sempre in redazione. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Comunque vada, buon fine settimana, soprattutto a chi lo passerà lavorando. Radio 24, la passione si sente.